Attenzione, canale 23, attenzione canale 23, si va scucciando qua questo piccolo canile, cambio. Ora, se. Non si poteva che si metteva una palla non so uno sopra l'altro. Vabbè, conosci in tanti, è così. No, perché io stavo messaggiando con Franco e quel microfono che sta usando non va assolutamente bene, perché io ce l'ho quella radio, no, in AM non la uso perché non ne ho tutto piedi. Capito? Devi metterci l'SM20 se vuoi, che spinga un pochino, che abbia la sua bella modulazione, se no con gli altri microfoni diventa nasina la modulazione, capito? Mi sembra che stava usando l'MC60, non lo sbaglio. Ma non va bene. Una capsula ceramica quella, non va bene, poi è alimentato, c'è il circuito di preamplificazione, non va bene. Deve usare l'SM20, gli ho mandato anche la foto, deve usare l'SM20 oppure il suo microfono normale con il processore inserito e l'amplificazione, mi sembra, anziché a 10, perché deve entrare nel menu, anziché a 10 metterla a 5, a 6 e va bene. Ha un'ottima modulazione, però tenete conto che quella radio in AM non sarà mai perfetta, quella è una radio che funziona molto bene in banda laterale e in FM, Manuel, capito? In AM io ce l'ho ed è sempre dentro l'armadio, perché in V e in U non la uso, io ho il quadribanda, in V e in U non la uso perché ho le radio separate, sempre della ICOM, capito? C'ho i due base della ICOM da 100 watt, sono separati, una V e una U. E in AM non l'ho mai usata perché non mi piaceva la modulazione, in banda laterale non la uso perché ho le altre radio. Però è un ottimo ricetrasmettitore, ma bisogna usarlo col suo microfono, l'SM20. Infatti me l'avevano detto anche a me che il microfono adattato in AM per quella radio lì è l'SM20. Infatti, ma lascia lì, ci vuole. Perché anche Luca mi sembra, come modulazione sì, esce forte, ma è troppo amplificato. No, non è troppo amplificato, già va bene, però sta usando un altro tipo di microfono. Avanti, Fra, chi è che ha detto ma lascia cosa? Luca, tu sì. Ma lascia lì. Tu cosa stai usando come microfono? Prova a indovinare. Ma tes. L'MC60 stai usando? Vedi, tu esci molto meglio di Franco. Franco allora deve entrare nei parametri e fare le regolazioni. Io con l'MC60 non andavo bene, spingevo troppo, non lo so. E quindi usavo l'SM20, ne avevo due e ne ho due. E quindi usavo quello. Ti ricordi che l'SM20 l'avevamo messo, anche avevamo fatto l'esperimento io e tu, l'avevamo messo sul 430. Sì, sì, esatto. Io ci vo bene col 430, quando avevo preso l'SM20. Sì, io ho l'adattatore Icom Kenwood 2. L'ho usato qualche volta così, tanto per provarlo, esce molto bene, esce molto bene. L'SM20 al K si abbina molto bene, ma il K all'ICOM non è che va. Per esempio, io con l'adattatore ho usato l'SM20 col 756 e non mi piace, è troppo tonalità acuta, c'ha, capito? Mentre con l'SM20 c'hai medio-alti più corretti, Lu, capito? Però va bene. Adesso non so se la modulazione di Franco, perché tu stai uscendo bene, tu stai uscendo benissimo. A quanto ce li hai tu i parametri? Il processore inserito, cioè il compressore inserito, e a quanto c'è il parametro del Mickey Gain? Ma io qua. Ehi. Allora, Mickey Gain a 7 e compressore inserito. Io appunto lo usavo a 5. A 5 compressore inserito. Adesso bisogna dirlo a Franco di entrare nel menu e portare inserire il compressore e mettere il Mickey Gain a 7, anche a 8 forse lui lo può mettere perché c'è la modulazione con meno acuti rispetto a te, e fare le prove e vedere un po'. Avanti Manuel. Io non ho sentito, infatti gli ho detto di passare qua, Marcolino gli ha detto di passare qui, però io non ho sentito che c'era Franco. Sì, è entrato, infatti gli ho mandato subito un messaggio su WhatsApp dicendogli che come modulazione è troppo cupa, non va bene, evidentemente le regolazioni non sono fatte a regolarate, quindi magari mandarle un input a 7 il Mickey Gain e 7-8 il compressore inserito, se riesce appunto ad entrare nel menu e a fare le a inserire i parametri giusti, ecco, capito, tutto qua. No, tu stai uscendo bene, Lu, tu sei perfetto. Ascolta, ce l'hai in amplificazione il 60 o è staccato? No, è in amplificazione, guarda, allora, qui in questa modalità dovrebbe essere più basso. Allora forse ce l'ha staccato anche lui. Allora devo mandare un messaggio, modalità in MC60, non out, impedenza 50K, Mickey Gain a 7 e compressore inserito, così è? Sì, no, adesso ti metto a 500 dal microfono, ecco, così a 500. No, 50, lui. Guarda, come sta uscendo lui? Come sta uscendo lui? Allora le mando un messaggio subito, immediatamente, perché tu stai uscendo bene, mi piace la tua modulazione, la sua non ha potenza, sicuramente c'ha l'impedenza 500 e non è in ma in out, il microfono e i parametri non sono giusti. Adesso le mando un messaggio, allora, riprendi Manuel. Sicuramente devo dare regolati i parametri, perché le radio sono uguali. No, ma non credo sia questione di microfono, io non l'ho sentito a Franco, però perché il microfono è quello che usavo 680, così che non può essere che abbia toccato il microfono, sicuramente dalla radio. Io non ho gente sbagnuta, ma lo stavi dicendo tu che c'era sul 10, ma non l'ho sentito. Ma neanche io l'ho sentito. Ti ha detto manda un messaggio a Franco di dargli un controllo, io non l'ho sentito, a me mi ha mandato un messaggio lo stesso. Sì, ma dai, si ha preso. Probabilmente è blu, non lo so, se ha sentito Claudio o era senza compressore. Ha sentito Claudio, dice che non era buona come modulazione. Ehi, l'ho sentito, ma l'ha detto anche Giulio. Adesso gli ho mandato un messaggio con questi parametri e dovete passare qua sul 23. Vediamo se passa, così lo proviamo, perché sia l'MK2 sia l'MK2G hanno lo stesso sistema. Il G c'ha la scheda dell'EU e quello l'altro non ce l'ha, però i parametri sono uguali, quindi dovrebbero uscire. Deve uscire uguale a come stai uscendo tu. Evidentemente lui c'ha i parametri del 60 chiusi, deve aprirli, oppure il Mickey Gain è troppo basso, capito lui? Adesso sono senza compressore, vedi un po'. Più o meno come stava uscendo lui poco fa, troppo basso, sì. Poi è tutta manetta che andava molto meglio. Probabilmente durante allora stavo uscendo senza il compressore, non so. Io non ho sentito. No, tu sei una canonata. Tu vai bene, tu sembri con il K. Bella spinta, bella tonalità acuta, bella alta, medio-bassi regolati benissimo, bella modulazione, Lu, se no te l'avrei detto. Sì, ma infatti quando poi ho scoperto che anche con l'altro microfono usciva forte come cosa, giudito, e poi questo il compressore è anche regolabile, e ho detto quasi quasi metto il 60, visto che esce bene col SaDelta Master Pro, che stavo usando il SaDelta prima, ho detto prendo il 60 che dovrebbe uscire bene lo stesso. No, ma c'è un abisso, ti ho sentito io col Master Pro. 60 è molto più corretta la modulazione, è molto più professionale, è un'altra cosa. No, l'abbinamento c'è, perché io li ho fatti, abbinamenti Icom con Kenwood, Kenwood con Icom, addirittura MC60 con Yaesu, spettacolare, spettacolare con lo Yaesu. Capito, con l'FT920 era una canonata, andava molto molto bene. Però rimane il fatto che l'SM20, tu lo sai, lo conosci bene, Emanuele magari non so se lo conosce, ma tu glielo conosci perché l'abbiamo già sperimentato assieme negli anni che furono. L'SM20 si adatta molto molto bene all'ICOM, a tutti gli ICOM, ma soprattutto va molto bene anche ai Kenwood, quindi è un microfono maledizione che è salito molto di prezzo. Io ne avevo preso uno, ero rimasto a 140 euro, adesso da poco, l'anno scorso, perché intanto siamo già a metà anno, l'anno scorso ne ho ordinato prima di Natale un altro per una radio ICOM che c'ho, per non stare cambia che ti cambia, e cazzo 170 euro me l'hanno fatto pagare, 170 euro, vabbè. Avanti Emanuele. Sì, già lo conosco come microfono, ma costa una vacca di denaro, piccolino, ma costa un bel. Lo so, ma anche il 60 è salito. Noi quando compravamo il 60 con Luca Antrobagama, dentro io, 120 euro, che adesso costa 150 euro nuovo. Lo so che costa lontano, ne avevo due io di MC60 quando ero su, e li avevo pagati intorno ai 120, 130, usato. No, usato io ne ho dato, ma no, non più di 80 euro, cosa? Sì, cazzo, 120 me lo comprai giù nuovo. 80 euro in buone condizioni, ne ho dato qualcuno, ho dato anche uno a Massimiliano, nuovo, non è un problema quello. Però se vai a comprarlo nuovo, questa è una barca di soldi adesso, non è più mentre prima, vabbè. KK. Ascolta, vabbè, riprendi Luca, che poi faccio un interrogativo a Emanuele. Stanno salendo il prezzo anche nuovi. Vediamo se c'è Franco. No, non ha letto ancora il messaggio, si è messo allontanato, non l'ha letto. O è andato a casa di Vannino, perché l'ho detto, ho fatto regolare da Vannino, che lui ce l'ha uguale, lo stesso come me. Non lo so. Stavo dicendo, Manuè, ma tu veramente, l'altro giorno ti ho sentito scherzando, stavio cose, ma tu c'hai veramente un motocarro? No, ma è una, non è neanche la mia, è una moto cinquantina a tre ruote, perché? No, per caso ti ho sentito, hai detto c'era un motocarro, perché c'era un motocarro grosso, molto probabilmente, adesso devo vedere il mio cognato, dobbiamo liberare la casa di Viale San Francesco, quindi ho detto, ma per farlo fare un altro, posso fare, ma quello è piccolino, capito, perché c'è roba un po' pesantuccia, e quindi cazzo che so, ci rimane roba pesante, cazzo, blocca a camminare solo con le rode da reto, no Lu? Per libretto quello più di 100 kg non puoi caricare. Se vuoi ti do il numero di un amico di qua, lo stesso vicino a me, e c'è un motocarro, c'è un poker, quello lì va bene. Sì, non sia molto grande, l'importante è che possa caricare peso, capito? Sono dei divani, o un paio di poltrone, un divano, insomma, qualcosa del genere. Casse vuote di bottiglie, monitor di computer, tutta roba da portare via all'autoparco, perché lì c'erano gli uffici dell'Etra, della casa di riposo appunto del mio cognato, e quindi adesso stiamo liberando perché ci vuole abitare. Capito. Un'altra cosa, l'ho detto anche a Luca, lo dico a te, adesso lasciamo passare, sicuramente lo faremo dopo Ferragosto, tanto il tempo è sempre buono. Con la paga, Manuè, mi servi tu e Luca, gliel'ho già detto, perché dobbiamo fare pulizia sul tetto, buttare giù tutte quelle antenne direttive, bim bum bam, smontare tutto, fare un lavoro ad hoc, capito? Ok, non c'è problema, allora, perfetto. Ok, sappilo, l'ho detto anche a Luca, non ti avevo più sentito, vabbè io non sto accendendo nulla perché non ho più voglia di fare molta attività, la verità. Mi sto godendo un po' l'estate finalmente e sto benissimo così, fuori da rigiramenti, fuori da imbrogli, come ti dici di assassari. Vai Luca. Meia. Ma a cosa a proposito? Martino glielo ho detto, cioè per organizzare il giorno, ma non per altro. No, ma non serve Tino, ci siamo io, tu, Manuele Massimiliano, cosa lui che farà Tino? Già va, andiamo bene noi, o lui, no, non ci fa niente Tino, se non gliel'ho predetto. Vabbè, portate ci siano braccia poi. Tra te, già ti ricordi che ci abbiamo fatto quando abbiamo montato altri elementi, lo vedi tu. Eravamo io, tu, Vanni, e poi chi c'era? Un altro ce n'era, un mammetto Garira. Non me lo ricordo, l'avevi tarattato da tre elementi, quella che ho smontato da solo. Ma l'avevamo piazzata io, tu, Vanni, e un altro c'era, non mi ricordo chi era, Non me lo ricordo, vabbè. No, già, già siete abbastanza robusti, poi c'è anche Massimiliano, io già, il mio peso già lo mantengo, non ce n'è problema, già battiamo in quattro. KK, mazzia, non ha letto Franco il messaggio, però volevo vedere un po' se veniva qua, così facevamo questa regolazione, perché mi sembra che anche la mia era così, non mi ricordo se la mia era 5 o 7 lo stesso, però compressore inserito e microfono tutto in amplificazione, come lo stai usando tu lui. Quindi vuole usato così, se lui non ha quei parametri lì non esce bene. Vai Emanuele. Beh, se non c'ha quei parametri lì come c'ha Luca non c'è bene, no. Evidentemente non c'ha il compressore disinserito, non lo so, io non l'ho sentito e quindi non so come stava uscendo. Vai Luca. Guarda, qua si può anche regolare il compressore, ecco, adesso è al minimo. Vedi un po'? Poi se ce l'abbiamo inserito ma è al minimo, ma lui non sa che si può regolare, perché vedi che non stai spingendo. Mettilo com'era, quanto lo metti? No, c'è un trimmer da regolare, ecco, adesso lo sto regolando, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, adesso al massimo, 1, 2, 3, vedi un po'? Esatto, come il trappo, ed è quello che c'è dietro. E a fianco è nella radio. È accessibile, c'è il trimmer del Vox, il trimmer per il ritardo del Vox, il trimmer per il compressore. Quello chiuso c'è allora. Allora lui non lo sa, bisogna dirglielo che c'è il trimmerino del compressore da regolare. Capito? Perché sicuramente è quello lì che lui non lo sta facendo spingere. Senz'altro, può darsi che ce l'abbia chiuso, infatti. Se mi dici che stava facendo così, col coso chiuso, col trimmer chiuso. Sì, vai tranquillo, adesso gli mando anche quel messaggio, perché sinceramente io manco me ne ammento, ma mi sono ricordato che c'è il trimmerino regolabile del Mickey Gin. Adesso le rimando un altro messaggio e glielo dico. È quello sul fianco sinistro, no Lu? O destro, non mi ricordo. Bisogna prendere la radio dentro l'armadio. Destro, dove c'è il VFO lì, nella radio, ci sono due fori. In uno c'è scritto Vox e nel primo proprio verso il VFO c'è scritto compressore. E lì entri un cacciavite, all'interno c'è un trimmerino e lo devi regolare da lì. Adesso le mando il messaggio, riprendi Emanuele. E lì dici di passare qua, che siamo qua, almeno vediamo un po' come esce. Giro! Chissà perché l'hanno fatto così. Cosa? questa radio con il trimmerino a fianco. Ah. È perché non c'ha la regolazione al compressore, capito? Poi lo inserisci o lo disinserisci, però c'è anche un'opzione che lo puoi mettere a metà, al massimo. Non so come funziona quello lì. Ecco, oh Frank! Mandatoglielo, vediamo, però ancora non li ha letti, evidentemente non è col telefono in mano. Non è polline. A giocare già succhia, ragazzi, che hai la radio, noi scende come te Luca. Glielo ho anche detto, permetti, mi ha detto, guarda Luca esce magnificamente bene, i parametri che ha Luca sono questi qui, devi metterli uguali a lui, e poi vediamo se va bene come la sua, glielo ho anche mandato un messaggio. Capito. Non mi avete detto niente, sto arrivando bene sì da tutte e due. Ho sollevato lì un paio di metri, ma di più non la posso sollevare perché non c'ho lo spazio. Un paio di metri questa mantova. A voglia, lascia così, a voglia che arrivi. Non credo, claro, che questo sia modificato, non credo proprio. Credo che esca così. No, si modifica tutta scheda, insomma, così si modifica. Non ve ne modifica davanti, non è 440, no. Guarda, io ci ho provato in mille maniere, perché inizialmente veramente mi stava dando una tana. E poi l'avevo messo in macchina e lo usavo in VLU col microfono normale, quindi non mi ero più preoccupato praticamente della M. Poi un giorno l'ho riportato a casa, l'ho attaccato a casa, gli ho messo l'SM20 diretto col suo attacco eccetera, con l'adattatore, no? quello spettore che ti avevo detto, che me l'avevano dato assieme alla radio, e così va perfetto una M, non dà più di 40 watt, anzi lo mettevo a 25-30 watt e mi dava anche picchi positivi, se lo metteva a manetta mi dava picchi negativi, e ho visto che ha migliorato tantissimo, quindi gli avevo lasciato quel microfono. Poi invece l'avevo tolto, conservato, e vi lascio ancora dentro la cattura, dentro la scatola, dentro l'armadio. Anzi, mi sa che lo tolgo e lo accendo un pochino in VNU, perché non l'ho più usato, è più di un anno che non lo uso quella radio io. Peccato, faccio una bella radio. Tra l'altro esce bene anche la M, così che ho detto, ma perché devo tenere due radio quando già questa esce bene? Alla grande esce. Tu c'hai il quadribanda o tribanda? Ah, 7-2-6, tribanda normale. E l'MK2, non è il G, dai, io ho l'MK2G, quadribanda. Ma ne ho avuto tre. Ne ho avuto tre di quelli. Ho avuto due tribanda e poi quadribanda. Che avevo comprato alla fiera. Figurati tu. I due tribanda. Il quadribanda invece l'avevo comprato qua a Sassari. Era un radioamatore che aveva dismesso, insomma, non lo usava più. Avanti, Emanuele. Ehi, Acra, dai, mi assento un attimino, riprendo subito, dai. Arrivo subito. Riprendete voi. Kappa, va bene. Va bene. E io ho 430, 440, avevo intenzione anche di prendere un 680 per portarmi in campagna, poi ho detto magari me lo vado va. Infatti ero propenso a portarmi via il 430, lasciare solo il 440, Sassari, poi magari me lo vado va, stare lì, tira e molla. Basta un baracchino, mi c'ho questo Airbus 4082, che è una cannonata col tale più 3B. Che mi ha dato Massimiliano e ti dico che va più che bene per fare due chiacchiere. Me la futta assai, 3 watt, 4 watt, già. Chi mi vuole sentire mi sente, se no me la futti nulla. Vabbè, però se vuoi l'HF anche. Vuole Ubu. No, ho preso anche il cavo, il CAT 17, che appunto è già arrivato pure, e l'ho collegato al computer, ho scaricato un radio deluxe e funziona bene lo stesso. Ed è molto comodo quel programma. Ecco. Alla grande, è comodissimo sì. Ecco, io quel programma lì ce l'ho con l'HF, con lo Yaesu. Capito? Con lo Yaesu. e niente, le altre invece sono tutte analogiche, quindi non hanno quella possibilità. Avanti, io il back, avanti. Buonasera, Bandito. Non ho capito. Ho detto sono Bandito, buonasera. Sei Bandito, ah Roberto, sì, io ti ascolto male però, boh. Tu Luca, come lo senti? La cosa arriva bene, forse più vicino a me, boh, non lo so. Microfono normale, non ce l'ho amplificato come il vostro per quello. No, ma strappi, cioè, non so se no, segnale basso qua, io non sono a Sassari. Segnale molto basso, però la radio strappa, boh, io la sento strappata. Ma è satura, forse. Non so, boh, sembra satura, sembra che stai strappando qualcosa del genere, non lo so. Boh, avrà stazionaria, avrà l'antenna, boh. O sei sottoalimentato o è stazionario, ma probabilmente sei sottoalimentato. L'accendi sigari sono alimentato, forse c'è poca corrente. L'accendi sigari? Allora sei sottoalimentato. Non ti sta dando la tensione giusta sicuramente. Prova a mettere, ma sei in macchina, metti in moto la macchina a vedere. È in moto. No, io ti sento strappato, molto molto male ti sento. Segnale 5, 6, però la modulazione è troppo troppo strappata. Non riesco a capire quello che stai dicendo. Avanti tu. Ma io la capisco, sì, però strappa. Non lo so. Da che zona stai modulando con la macchina? Sempre la zona mia, a monte. È la zona tua, io non la conosco, al monte. Più o meno, monte alto, monte basso. È monte alto, monte nuovo. Ah, ho capito. Quindi non hai antenna a casa, eppure sei di fronte, secondo dove sei di fronte, io sono di fronte a te, la zona di Monte Oro. No, ma tu arrivi bene, ma tu c'hai l'antenna sul tetto, io no. No, sul tetto ce l'ho a casa a Sassari, a Carbonazzi, a 40 metri di altezza, io sono Claudio Sparviero. Qua è... sono collega di Emanuele Ginco, lui ce l'ha sull'albero delle pere, io ce l'ho a fianco all'albero delle olive. Vai Lu. Ma adesso ce l'ha tirata su, dai Emanuele. Ho messo un palo telescopico e un po' l'ha tirata su. Sì, anche io già, insomma, non è che sia molto alta, prima da 2 metri, adesso è poco più di 5, 4, boh, 5. Però almeno i radiali sono liberi, prima toccavano i rami, adesso sono liberi. E quindi già va bene. E ho fatto un tipo un plinto mio, o lui. Giubiliato uno di ghisci barattoli di tinta da 25 kg, ho fatto l'impasto, bello grasso, ghiaia e cemento. Non molto molle, e ho messo un tubo da mezzo pollice, un pollice al centro, ho lasciato asciugare bene, poi ho inserito quello da un pollice e mezzo telescopico e ho tirato su, capito? Però è 2 elementi solo, prima c'era un elemento, adesso c'è 2 elementi, e in pratica gli ho messo 2 tiranti, uno a un ramo, uno all'altro, in modo che non si muova il tubo. Ha giubato un bosso in terra e un gozzo si è giubato dentro al bosso, il bilone, no? Dentro il fosso, tipo un plinto. Sì, però l'hai fatto nel secchio. Vabbè, va benissimo lo stesso, tanto da buio quando va interrato non si muove più. Sì, no, stavolta questa interfaccia qua dell'SDR per collegare direttamente anche il 706. Sì, già si può fare. Grande. Si può fare, va bene. No, perché quello è digitale, capito? Quindi si può fare. Quelli che ho io, 30, 40, l'altro. Anche quelli VEU sono tutti analogici. Quelli HF no. C'ho solo lo IESO collegato così, e basta. Va bene. Roberto Bandito, ma tu sei il vecchio Roberto Bandito, sì? Ehi, sono sempre io. Sei grandetto, adesso quanti anni hai? 51. Io ti ho conosciuto ai tempi che fu, no? Vabbè, io ne ho 61, ne ho uno più di te. 61. Ti ricordi di me, sì? Sì, già mi ricordo, cazzo. Bei tempi, caro Roberto. Adesso oramai, oramai ci muovici, due chiacchiere e via. E via, oggi da Dio si sta, da Dio veramente, c'è una bella arietta, ma ti dico, l'acqua è bella, bella ruspante, bella fresca, a sto venendo discorso non si poteva stare, come mettevi i piedi a bagno all'acqua, a sto era buddendi, e come te, quando ti fai da un romagno con la bomba, no, di leva, d'estate, che esce quell'acqua bollente, così gira. Sì, meno male, sono di 10 gradi è scesa, non è poco. Infatti, ma tu considera che noi facevamo due tuffi proprio così, giusto per rinfrescarci, la sera alle 8, alle 9, capito, dopo cena, perché l'acqua iniziava a rinfrescarsi. Ma all'ora di pranzo, cioè la mattina, non si poteva toccare l'acqua. Era proprio buddita, Eva buddita. Sì, ma ieri c'era questo maestrato. Poi già calato, perché anche il mare a Stintino era piatto oggi, piatto, bello. E oggi, vabbè, è girato un po' a maestrale, stamattina era un po' a ponente, poi ha fatto ponente maestro, adesso c'è un po' di maestralotto, ma penso che domani si nuovamente a Libeccio, a Greccale, insomma, comunque sono venti che non danno fastidio. Io quello che temo è lo scirocco è troppo caldo, cioè t'ammazza, di VH blu più che se c'erano i cani che non ce la facevano più. Li dovevo in continuazione, soprattutto quello mio che io tengo a Sassari, a Filippo, il bulldog inglese, lo devo in continuazione bagnarlo con la pompa, perché stava schiumando, cazzo poverino, stava schiumando, non c'era, anche se si mettevano al fresco, l'aria era talmente calda, bollente, che erano indotti all'ingafura, un casino. Avanti, Roberto. Telefono. Sì, avanti, bandito. E niente, si parlava di tanto tempo fa, comunque sì, alla fine mi ricordo si stava tutta la notte pure a ridere e scherzare, non bastavano 40 canali, di quanta gente c'era. C'era un bel da fare, ma Falcone c'è ancora? No, non c'è più nessuno, ma quelli che hai sentito sul 10, quei pochi lì, io, Luca, adesso io mi sono spostato qua sul 23, dovevo fare una prova con Franco, però non è entrato, era un ascolto. Siamo rimasti molto molto pochi a Sassari, non c'è più l'attività che c'era prima, non c'è più quell'interesse che c'era prima, insomma. Due chiacchiere si fanno, ma con molta così. Quei pochi che siamo rimasti, capito? Gliel'ho capito. Comunque c'è sempre Alessio. Qualcuno c'è, Pomponio c'è sempre. Pomponio a Sassari, il mio vicino di casa, certo che c'è. Ma anche lui è assente in questo periodo, c'è un sacco di cose da fare. E quindi è un po' assente, ma anch'io ero più di una decina di giorni che non entravo. Oggi ho acceso così, ho visto c'è un po' di freschetta, tu mi siedo a fare due chiacchiere, ma sono entrato a salutare e basta, niente di che. Non è che abbia molti argomenti in questo periodo, soprattutto. L'estate è fatta di altro. Stavo aspettando, ti ripeto, Franco per fare due prove, però non è entrato adesso. Appena rientra Luca chiudo definitivamente anche qua e vado a fare qualche altra cosetta. Io l'ho portato perché ho detto volevo vedere un pochettino se c'era qualcuno, perché io non abito più qua, io sono ormai già 20 anni che abito a Modena e di là non c'è nessuno, capito? Nella 27. E niente, ho detto vediamo un po' se c'è qualcuno. Sì, qualcuno c'è sempre, soprattutto sul canale 10 c'è una semplice ruota di persone appunto che fanno due chiacchiere, me compreso, ma ti ripeto io in questo periodo sono un po' assente anche perché ho altre cose da fare, ma sinceramente parlando non sono molto motivato come i tempi passati a stare molto in radio, sinceramente, però capita, magari senti qualche amico e ti salutare e basta, tutto qua. Va bene, dai, Robè, io ti saluto, ho fatto un piacere ascoltarti, buona permanenza qua a Sassari, sicuramente sei già in ferie. Salutami a Luca quando rientra, se c'è anche Emanuele, saluto anche a lui. Rimango con Rick, c'è qua sul 23, dai, se rientra Franco faccio due prove con lui, poi chiudo, ok? Ciao, un saluto e buona giornata. Ok, ti ringrazio. Ci sentiamo alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao anche a te. Allora, 523? Sì, 523. Chi è? Giovanni. Ah, tu sì. Bene, di sì. Ehi, non ti sento. Anche se mi ha dato qualcosa. Ehi, vai. Giovanni. Oh. Quel commutatore è trovato, l'hai? No, l'ho trovato. Poi, cacchi, l'ho raggiunto, se non mi dà mento. Aspetta che mi ha dato l'uomo, un attimino. Ehi. Sì. E vado a mangiare, non so com'è il magazzino, che non sembra. A che ore a storia lo voglia? E invece a storia voglia che tu professionale voglia, capito? Che io non l'ha voluto, capito? E sono andato a fare il magazzino, avevo mi ha già reggiato, ma è caro gioca io. Sono se mettono le musiche, se va sì, cazzo, mucca, non me la mangiare, vai bene, va. Va bene, Giovanni, dai. Ecco. Manuè, ha detto che controlla dopo, dai. Dopo controlla e che adesso sta facendo cosa, e poi già entra. Perché sta facendo passo, cazzo, era Santiago 2, 3, la radio era proprio bassa. Bisogna vedere cosa ha toccato, si è abbassato la potenza, non lo so, dai. Poi mi richiama, magari già rientra, mica c'è un break che fa l'entrata. Avanti il break, non intendo io, qua. Ha inteso un break, non lo so. Che è avanti? Vabbè, dai, sto facendo cose anch'io, ci sentiamo dopo, ma se mi chiama Franco magari facciamo la prova, dai. Ciao anche a Giomari. Ok, dai, ciao qua. Successo a Franco? Manuel. Giomari. Cosa è successo a Franco? Ah, gli è arrivata la radio e quindi dovrebbe mettere tutti i parametri per uscire bene, capito? Trovare tutti i parametri. Ah, non ho capito. Beh, senz'altro, Mari. Se lo sapete come fare, basta dirglielo. Infatti già l'ha sentito Claudio, gliel'ha detto di fare così, perché gliel'ha già spiegato. Adesso entra più tardi, ha detto. Sa che Luca prima usciva a Sassuolo e usciva male, invece adesso sta uscendo bene, mentre ha trovato le regolazioni e sta uscendo bene adesso. Certo, dovrebbe trovare i parametri giusti e poi uscirà bene, sì. Eia. Vabbè, va, buon prigionamento, già sono in ascolto. Ok. Chiaravanti uguale minima, noi parametri, capito? Però deve avere qualche altro problema, forse l'antenna, non lo so, adesso controlla, poi entra. Antenna, non si aveva entrato l'antenna, che si aveva un'antenna. Ma non esce, sta uscendo basso. Va problemi la radio. No, i parametri, eravamo al telefono, li ho regolati come il mio, intanto più di quella potenza non dà. Capito? Più di quella potenza nemmeno non dà, non è una radio che dà molta potenza nemmeno. Ha detto che sono al massimo i watt, perché c'è come si chiama? Love, poi c'è, insomma, c'è il minimo, medio e alto, capito? È in alta potenza, è in HI la radio, HI, sì, alta potenza. Però no, già l'hai visto, il segnale è basso, quindi io le regolazioni che gli ho dato sono quelle uguali al mio, sia del compressore sia del Mickey Gain, non è che ci sia molto da regolare, i parametri del microfono sono quelli. Adesso mi siamo fatti, lo sentiremo dopo. Il tasto del compressore l'ha attivato? Sì, sì, è in on, però deve fare, gli ho detto di regolarlo dal trimerino, perché quella radio lì in AM devi inserire il compressore nel menu, però poi devi andare a regolarlo per quanto riguarda la M, mentre invece se tu non lo regoli quello lì in SSB va in automatico, tu basta che ce l'hai inserito nel menu e lui lavora in automatico, mentre in M lo devi fare manualmente, capito? Quindi gli ho detto come fare, adesso vediamo, entrerà dopo perché ci aveva gente. Ok, dai, ma sarà qualche cazzata comunque, dai, sarà qualche cazzatina. Io lo sentivo molto basso basso, secondo me anche i batti di uscita non so a quanto ce li aveva, perché cazzo mi arrivano per lui. Che tra potenze c'ha quella radio, Manuel? Noi in Aggiaseno c'ha il minimo, il medio e il massimo, lui ce l'ha al massimo i watt, capito? E lei, ma quella radio non dà più di 40 watt, non è come la banda laterale. Quella in banda laterale da 100 watt in banda e 100 watt in FM, ne me ne da 35, massimo 40, però è consigliabile usarla a 30 watt per avere il picco buono di modulazione. Però, ti ripeto, il Mickey Gain è regolato a 7 come quella che ho io. Il compressore, io non lo uso in M quella radio, ce l'ho praticamente inserito il compressore, però va in automatico in SSB. Mentre in M c'è scritto che devi fare la regolazione manualmente, quindi devi aprire il trimmerino, entrare e girarglielo, altrimenti non agisce in M, capito? Così ha fatto, adesso aspettiamo che entri per farcela sentire. Perché prima aveva tutto chiuso quando l'ho sentito la prima volta, capito? Adesso il Mickey Gain e il compressore sono attaccati. Allora bisogna vedere cosa mi ha risultato. Se mi stai dicendo che ci aveva i batti al massimo, è possibile che mi arriva così basso? A Giumai non intendo. E tu a Giumai non l'hai inteso, io non l'ho inteso ma nuda, quindi ma c'è già di due. Così mi ha detto, così ti sto dicendo, che nel display i watt sono in HI. HI è l'alta potenza. E adesso vedrai che qualcosa che non quadra, perché quella radio lì, anche se c'ha bassa potenza, mi dovrebbe arrivare almeno 5 sì di segnale. Allora, quella radio c'ha 5 watt in love, quindi minima potenza, poi c'ha 15 watt modulati 20 in media potenza e la massima potenza in HI è dai 35 ai 40 watt modulati. Perché ce l'ho uguale io, capito? Anzi, lui c'ha il tribando, io c'ho il quadribando. Ed è uguale, non cambia assolutamente niente. Però ti ripeto, in AM io non l'ho mai usata, l'ho usata qualche volta, così e basta. La uso in V e in U e qualche volta l'ho usata in HF quando ce l'avevo in macchina. Però le regolazioni sono quelle, perché sono quelle che c'ha anche Luca, uguali, precise identiche. Luca esce molto bene con lo stesso microfono. Quindi lui ce li aveva chiusi, adesso li ha aperte, però a me non mi arrivi, io non intendo. Quindi adesso deve controllare che cosa c'è che non va. Infatti io sentivo che stavo fischiando, cazzo, ma era proprio terra a terra. E tu invece hai inteso bruciando, io ma qui sono inteso. Io lo sento la prima volta nel 10 e gli ho mandato un messaggio e gli ho detto appunto che i parametri non erano quelli. Allora ci siamo messi d'accordo, gli ho dato i parametri, li ha messi, però a mano esci di segnali, a mano per potenza, non ci ho preso qualcosa, boh. Oh, non lo so, opra, non la conosco quella radio lì, non so come, cosa sta toccando. E poco da toccare, c'è il menu, c'è il compressore, i parametri del Mickey Gain, i parametri del Vox, no? Che vi si assai. È molto semplice, ma è una radio molto delicata. molto molto delicata. Allora ti attacca il wattmetro, controlla se i watt sono giusti, in potenza bassa, potenza media, potenza alta, se è tutto regolare, perché solo da quello può dipendere adesso, perché le regolazioni che gli ho dato io sono uguali a quelle che c'ha Luca, precise e identiche. Appunto, cazzo, dovevi lasciare una bomba, no? E invece, ma noi non arrivi, cosa vuoi che ti dica? Boh. Io ne ho avuto quattro, questa che c'ho adesso è la quarta, perché ne ho avuto tre tribanda, e poi ho preso il quadribanda, l'avevo comprato a Sassari, gli altri li avevo comprati in fiera. Capite, andava molto bene, va molto bene come radio, però io non la uso perché ne ho altre e quindi non mi interessa. Ma se la metti giusta esce bene. E beh, se la metti giusta sì, esci, beh sì. Lui che esci, beh sì. Ehi, ehi, chi è? Vai a vedere, va a vedere in due. Fra, tu sì? No, vabbè. Vabbè, aspettiamo, dai, senta, gli ho detto di venire qua al canale 23, se non ci sono io, già siete voi, non c'è problema. Io già sono in ascolto qua, dai. Ok? Ci aggiorniamo dopo, Manuel. Ehi, ok, dai, ciao, qua. Claudio. Ehi, avrà. Com'è adesso? Vedi a vedere. Beh, un'altra cuba, sì. A quanto ce l'hai il microfono? Il microfono è 50 in. Ok, e il Michigan ce l'hai a 7? Michigan a 7 e potenza al massimo. Potenza sì, Santiago 9 e più. Ascolta, e quel trimmerino l'hai aperto? No, non l'ho toccato quello. Lo devi aprire, lo devi aprire. Fai come ti dà giusto io. Guarda se è chiuso o se è aperto. Ok, tutta a destra è aperto. Tutta a destra dovrebbe essere aperto, sì. Prova, vediamo se aumenta ancora. Perché adesso stai andando bene. Lo senti, Manuel? Adesso sì, è 8 adesso. Qua è 9, 9 più, dai. Vabbè, ma io c'ho l'antenna. La gente che apri a vedere se il compressore è aperto o chiuso, vediamo un po', però cazzo adesso sta uscendo bene, quasi 9.10 qua in campagna. Cosa è portato? No, deve essere lui che sta regolando, prova Fra. Provate, sono io, com'è adesso? Maganonata, adesso sei tu. Ok, l'ho fatto tutto al massimo. Ma stai gracchiando però, toccalo, mettilo bene al massimo, non tra il minimo e il massimo, tutto al massimo giralo. Sì, tutto al massimo l'ho girato, aspetta che provo, ma se no passo. Sta gracchiando. Prova Fra, mettilo tu, muovilo avanti e indietro, vabbè, perché quello non l'hanno mai toccato, deve essere sporco, prova a muoverlo avanti e indietro, piano piano, col cacciavettino e poi lo metti tutto al massimo. Davvero. Ehi, Alugarie. Buonasera. Beh, questo apparato qua lo metto in macchina e non funziona, non funziona, premo la portante e non sale, lo metto a casa e funziona, cosa può essere? Non funziona in macchina, cazzo, se funziona a casa funziona anche in macchina. Claro, è un inghippo, a cosa? Si accende tutto quanto ma non funziona, no, non funziona quello che deve funzionare, insomma. Non funziona, cioè non sale la portante, boh. Ma l'I48 è o già? E questo qua c'ha il volume anche un bel alto, capito? Questa in macchina va un bel bene, perché il volume è alto, invece quello dell'altra parata è basso il volume, e sento le radio più basse. No, ma questa è da macchina già, te l'ho detto, te l'ho detto anche l'altro giorno a mettere questo. Cazzo che strano però, boh. E te c'hai l'UA, Gianni? Ma io sentivo prima in macchina. Ma non ero con questo, ero col Cobra. Ma non esce in trasmissione, che cosa? Premi la portante e non si muove nemmeno, poi lo piazza a casa e funziona, capito? Quello è il problema, è me. Perché questa in macchina ci sta bene, anche dentro il cassetto, tutto quanto, ci sta bene, è proprio per lì. Ma stranissimo già. Non può essere neanche questione di alimentazione, no? Con questo problema che ti sta facendo, boh. Questo è più basso dell'altro, questo esce con un watt e mezzo, però la radio, vedi, è più potente. Ha un watt e mezzo, ma la radio è più potente, capito? Però nello stesso tempo non sale la portata, tu schiacci, è come se ci fosse il filo del microfono staccato. Se l'ha già regalato a casa si intende, ma non bene, no, di più. Con lo stesso microfono. Uguale, tutto uguale, stesso microfono, infatti avevo l'intenzione di aprire il microfono, però prima l'ho voluto provare. E funziona. Cazzo, un po' che in macchina non funziona. Cosa